E se Gesù Cristo non fosse risorto dalla resurrezione di Gesù? Gesù è risorto, questo è stato il messaggio centrale dei primi cristiani, mediante la resurrezione. Gesù è stato dichiarato figlio di Dio, Romani 1:4. Ogni potere gli è stato dato sia in cielo che in terra. Matteo 28:18. Si è seduto alla destra di Dio coronato di gloria e onore, Atti 2:32-34. Intercede per i credenti, Ebrei 7:23-25. Ha reso possibile la salvezza di chiunque crede in Lui. Romani 4:25. Egli è stato la primizia di quelli che dormono, 1 Corinzi 15. Si può parlare della resurrezione di Gesù Cristo dal punto di vista positivo. Vi è un altro modo di affrontare certe verità, cioè quello di vederle dal lato negativo. Qualcuno potrebbe considerare poco utile questo modo di avvicinarsi alle dottrine, ma in realtà io l'ho trovato molto valido per due motivi. Il primo perché l'approccio alla verità ha sempre due facce della stessa medaglia, e presentandone solo una si può deviare l'ascoltatore. Inoltre, nella mia esperienza ho visto molte persone che quando non capivano l'Evangelo presentato al positivo, cioè quello che dovevano fare per essere salvate, arrivavano però all'effetto desiderato solo quando si presentava loro cosa sarebbe successo della loro vita se avessero rifiutato la salvezza. Ecco perché desidero in questo scritto esaminare che cosa sarebbe successo se Gesù Cristo non fosse risorto. Leggiamo ora un brano della scrittura molto conosciuto per questo argomento e che ancora una volta dimostra come la resurrezione di Cristo abbia costituito per i primi cristiani uno dei punti cardini della loro dottrina. E il ben noto testo con il quale l'apostolo Paolo si avvia a concludere la sua prima lettera alla chiesa di Corinto. 1. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi. 2. Mediante il quale siete salvati, poiché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. 3. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. 4. Che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. 5. Che apparve a Cefa, poi ai 12. 6. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. 7. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. 8. E, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. 9. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono 10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. 11. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo. E così voi avete creduto. 12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è, è risurrezione dei morti? 13. Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. 14. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure la vostra fede. 15. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli è risuscitato, che Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitato. 17. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. 18. Anche quelli che sono morti in Cristo. 20. Pluralia Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. 21. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. 22. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. 23. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. 24. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. 25. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. 26. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. 27. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. 28. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. 29. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? 30. E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? 31. Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, è vero che siete il mio vanto, in Cristo Gesù, nostro Signore. 32. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. 1 Corinzi 15:1-32. L'Apostolo Paolo, che aveva visto Gesù Cristo e con lui parlato, nel brano riportato difende la resurrezione di Cristo, affermando che se questa non era avvenuta, sarebbe stato necessario prendere atto di tutta una serie di conseguenze per il cristiano e per la stessa rivelazione di Dio. Quali sono queste conseguenze negative? Eccone alcune. 1. La Bibbia affermerebbe il falso perché la resurrezione di Cristo era stata predetta, versetto 4. 2. I cristiani non sarebbero salvati perché avrebbero creduto in una menzogna, versetto 2. 3. Non sarebbe possibile che un giorno i morti risusciteranno. La tomba quindi porrebbe fine ad ogni cosa. Versetto 13. 4. La predicazione del Vangelo diventerebbe del tutto inutile. Versetto 14. E questo perché in realtà non vi sarebbe più l'Evangelo, cioè non vi sarebbe più nessuna notizia da annunciare. 5. Se diventasse vana la predicazione del Vangelo, lo diventerebbe pure la fede dei cristiani. Versetto 14. 6. Gli apostoli sarebbero dei falsi testimoni perché avrebbero sempre affermato la realtà della resurrezione. Versetto 15. 7. I cristiani sarebbero ancora morti nei falli e nei peccati, cioè sarebbero ancora separati da Dio. Versetto 17. 8. Tutti i credenti che sono morti con la fede in Cristo sarebbero perduti senza speranza. Versetto 18. 9. I cristiani sarebbero i più miserabili di tutti gli uomini perché sarebbero degli illusi. Versetto 19. 10. Io sarei, dice Paolo, uno sciocco perché a causa di quello che predico sono sempre in pericolo. Versetto 30. Come sciocchi sarebbero stati anche tutti coloro che hanno esposto per Cristo la loro vita alla morte. 11. L'unica scelta saggia diventerebbe quella di chi preferisce mangiare e bere perché tanto alla fine tutti moriremmo e tutto finirebbe. Versetto 32. Queste sono le considerazioni che fa Paolo in questo brano. Ma egli ha parlato ancora della resurrezione di Cristo Gesù nelle altre lettere, per cui possiamo aggiungere che, se Gesù Cristo non fosse risorto, vi sarebbe ancora tutta un'altra serie di conseguenze negative. L'elenco perciò prosegue. 12. Cristo Gesù non intercederebbe per i cristiani quando questi commettono i peccati. Romani 8:34 e Ebrei 7:25. 13. Gesù Cristo non sarebbe più Dio perché solo Dio possiede l'immortalità per natura. 1 Timoteo 6:16. 14. Nessun credente avrebbe lo Spirito Santo perché questo è stato dato solo dopo la resurrezione di Cristo. Giovanni 7:39. 15. I cristiani aspetterebbero invano il ritorno di Cristo, verità fondamentale per il cristianesimo. 1 Tessalonicesi 4:13-18. 16. Non avrebbe senso riposarsi alla domenica. Come mai i primi cristiani che erano giudei cominciarono ad osservare per il loro riposo il primo giorno della settimana senza aver ricevuto nessun esempio, nessun comandamento? Perché mentre il sabato ricorda il giorno della creazione da parte di Dio, il primo giorno della settimana ricorda invece la resurrezione di Cristo? Nel settimo giorno Cristo si riposò, nel primo fu incessantemente attivo. Il sabato ricorda una creazione incompiuta. Il primo giorno della settimana una redenzione compiuta. Il sabato era un giorno di obblighi legali, il primo giorno della settimana un giorno di servizio e di adorazione volontaria. Atti 27. 17. Non avrebbe senso partecipare alla cena del Signore, cioè prendere il pane e il vino, perché questi simboli ricordano non solo la sua morte, ma anche la sua resurrezione. 1 Corinzi 11:26. 18. Non avrebbe senso il battesimo perché esso è illustrazione della morte e della resurrezione di Cristo. Romani 6:4. 19. Non vi sarebbe la Chiesa perché è composta da coloro che sono nati di nuovo mediante l'opera dello Spirito Santo dato dopo la resurrezione. Matteo 16 e 18, Atti 2. 20. Cristo non sarebbe in cielo a preparare un luogo per i credenti. Giovanni 14 e 18. 21. I morti non sarebbero più giudicati. Atti 17 e 31. Forse questa è, in ultima analisi, la vera ragione della speranza degli scettici che negano la resurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non fosse risorto, la fede dei cristiani sarebbe del tutto inutile, perché la speranza lascerebbe il posto alla disperazione, l'attesa alla rassegnazione, la gioia alla tristezza, la vittoria alla sconfitta. Ma Gesù Cristo è risorto. Spesso quando si parla di cose future la gente dice «Ma nessuno è mai tornato indietro». Non è vero. Uno è tornato indietro dall'aldilà dai morti, ed è Gesù Cristo. Egli ha parlato di tutto. Anzi, mai nessuno ha parlato tanto delle cose future come lui. Questo spiega la ragione per cui i cristiani parlano spesso di cose future, di quello che non hanno visto. Perché stanno a quello che Gesù ha detto. Egli ha affermato più volte che nell'aldilà vi sono due luoghi, uno pieno di gioia e uno pieno di tormenti. Gli uomini andranno dove vorranno. Anzi, gli uomini andranno dove ora hanno scelto di andare. Se credi che Gesù Cristo è morto e risorto, per te andrai in un luogo dove è Lui e si starà bene, diversamente sarai respinto dalla presenza del Dio Trino, dove si avrà il dolore più brutto che possa esistere, il tormento di non aver creduto che Gesù Cristo sia risuscitato. Se sei scettico, non ti scoraggiare, hai tempo per rimediare. Molte dei difensori del cristianesimo erano stati scettici come C.S. Lewis o Josh McDowell. Quest'ultimo era un ateo accanito. Voleva scrivere un libro per dimostrare al mondo che Gesù Cristo non era il Salvatore morto per i nostri peccati e risuscitato, ma una semplice leggenda sviluppatesi nel corso dei secoli. A tal fine cominciò le sue ricerche storiche che misero in evidenza dei fatti molto sorprendenti e contro la sua volontà dovette ammettere che Cristo era veramente il Salvatore morto volontariamente per tutti gli uomini e risuscitato. Il peccato di una persona non è quindi dubitare del messaggio di Dio, ma rimanere nel dubbio dopo aver verificato la validità della parola di Dio e il non darsi da fare per verificare il messaggio di Cristo. La Bibbia ci riporta un episodio di una regina di nome Sheba che non credeva a quanto si diceva di Salomone, ma fece un viaggio di centinaia di chilometri per vedere se ciò era vero. Alla fine credette. Secoli dopo Gesù, parlando di lei, non l'ha rimproverata per il suo dubbio, ma l'ha lodata, perché fece tutto il possibile per accertarsi di quello che sentiva. Nutri quindi quella poca fede che hai, e il tuo dubbio morirà di fame. Maggio 2000 Ellero.